Euro Reportage. Adriatic Europa, le vongole della discordia, di Cristina Carpinelli. Nel nostro Polesine ci sono tutte un po' le arti e i mestieri, quindi dalla pesca tradizionale in fiume, in laguna e in mare. Poi c'è la pesca al traino con sistemi volante e strascico. C'è l'attività di draga idraulica, che è quella che vede come specie bersaglio la Venus gallina. E poi dopo c'è tutta l'attività di acquacoltura, che è venericoltura, mitilicoltura, ostreicoltura, il cui indotto si stima essere intorno ai 100 milioni di euro solo a livello di settore primario. Il volano creato poi dall'attività in Polesine lo puoi moltiplicare sicuramente per 3, e quindi immagina che giro di affari che c'è. Racconta così Alessandro Faccioli, che in Col Diretti a Rovigo è la persona che si occupa di pesca. Dunque, se si parla di pesca, i numeri della crisi fanno pensare. Negli ultimi 10 anni, secondo uno studio di Federpesca, infatti l'occupazione è scesa del 40%, la redditività delle imprese è diminuita del 31%, mentre i costi di produzione sono aumentati del 53%. A determinare questo giro nero sono molte questioni: l'aumento del prezzo del gasolio, una debole strategia a livello nazionale e una concorrenza sempre più forte coi paesi extraeuropei che non sottostanno alle regole di Bruxelles. E queste regole europee a cosa servono? Sono davvero l'estensione di un pensiero burocrate ottuso e cattivo? Ad esempio, qualche mese fa i giornali si riempirono di titoli sulla misura delle vongole. Le nostre più piccole di 3 mm rispetto alla direttiva europea rischiavano di non poter essere più pescate, vendute e mangiate. Insomma, un disastro, come ci spiega ancora Alessandro Faccioli di Coldiretti. Questo ha ingenerato uno stato di grande difficoltà dei pescatori, perché tu mi insegni che c'era anche il penale, cioè se uno veniva trovato con una vongola sotto i 25 mm rischiava tantissimo, rischiava il suo mestiere, rischiava la sua carriera. Il problema c'è ancora e quindi tutta questa situazione di stallo ha creato proprio un blocco vero e proprio del mercato. Grazie a Dio ci sono comunque delle ricerche scientifiche che dicono che la taglia in cui il mollusco Venus gallina è riproduttivo è intorno ai 18 mm. Cosa nasceva questo limite e perché l'Europa ha adottato una misura così punitiva? Ed è davvero così punitiva? Raffaele Crepaldi è stato assessore alla pesca a Porto Tolle. Oggi fa parte del GAC, gruppo di azione costiera pubblico e privato che gestisce fondi destinati alla pesca. Un po' l'impatto ambientale, un po' un sistema che volere o volare sta manifestando i suoi limiti. Un po' una regolamentazione che purtroppo è calata dall'alto, che è un regolamento comunitario che viene fatto sulla pesca, non solo acquacoltura, ma su un tipo di pesca tipo la sarda, pensando a un esempio banalissimo, la rete della maglia, la misura della maglia con cui deve essere pescata, ma anche tutte le conseguenze, i rilasci obbligatori, rendono un'attività che è sicuramente prevalente in questo territorio sempre più difficile. Dunque la storia delle vongole ci costringe a fare conti con altri temi. Negli ultimi anni, a causa dei cambiamenti climatici, ampie popolazioni di vongole sono state soggette a diffuse morie e non hanno raggiunto la taglia minima consentita. Cosa non fa crescere le vongole? Troppa acqua dolce nelle lagune, derivante da bombe d'acque, troppa acqua calda, derivante da temperature troppo elevate in estate, o semplicemente le vongole veraci italiane, le poverazze, come vengono chiamate, sono congenitamente piccole? Per chiarire questi quesiti, il governo ha scelto di aprire un tavolo con Bruxelles e sottoporre tutto a studi scientifici, e la strada sembra essere quella giusta, come ci racconta Giuseppe Castiglione, sottosegretario di Stato al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con delega alla pesca, che rappresenta il governo italiano a Bruxelles e che con la Commissione sta lavorando. Al momento la taglia minima è di 25 mm e voi sapete quante difficoltà abbiamo avuto soprattutto con le nostre marinerie, però il tema deriva da un regolamento del 2006, cosiddetto regolamento mediterraneo. Abbiamo istituito un tavolo tecnico su questa vicenda e quindi abbiamo coinvolto tutti gli operatori, e soprattutto alla luce dell'approvazione del regolamento Omnibus, questo il regolamento è stato approvato a maggio scorso e sulla formazione di questo regolamento abbiamo lavorato molto in sede di Commissione Europea e anche in Consiglio Europeo. Con l'adozione di questo regolamento Omnibus viene individuato il poter di stabilire delle taglie minime con un piano di gestione. Nei prossimi giorni il comitato scientifico a cui abbiamo dato incarico approverà le risultanze di questa attività, di questo lavoro, e a mio avviso noi siamo nelle condizioni di presentare immediatamente il piano di gestione alla Commissione Europea, lo possiamo presentare nel più breve tempo possibile, ritengo metà ottobre, 20 ottobre siamo in condizione di presentare questo piano di gestione. Quindi sono molto fiducioso che noi entro fine anno e per l'anno 2016 finalmente avremo risolto un problema in maniera significativa. Significa che ci sarà una deroga ai 25 mm supportata da dati scientifici, e quindi arrivare ad una soluzione, ad un provvedimento della Commissione Europea che noi auspichiamo sia favorevole, perché è chiaro che quando la Commissione si pronuncia anche su dati scientifici, noi abbiamo offerto quel supporto scientifico che a loro serviva. In Veneto, tra Chioggia e Porto Tolle, si contano una cosa come 90 tra cooperative e società agricole dedite alla pesca delle vongole, senza considerare l'indotto. Il tema ambientale, la tutela delle lagune, l'investimento in denaro è dunque un'altra importantissima questione, ma fino ad ora i soldi non c'erano e anche questa storia rientra nei famosi 3 mm delle vongole. Torniamo dunque a Porto Tolle con Raffaele Crepaldi. Mancano i soldi e negli ultimi anni l'abbiamo visto sempre con un maggior aggravio, perché per fare i lavori nelle nostre lagune, per permettere che venga continuata con proficuità il lavoro di acquacoltura e tutto quello che ne deriva, si parla di milioni di euro che il privato, cioè i consorzi e le cooperative da sole non riescono a sostenere. Oggi i fondi potrebbero arrivare, ma il colpo al settore resta duro e l'attenzione va concentrata, come ci ha già detto l'Europa, sulla tutela ambientale, che non può più ignorare i cambiamenti climatici. Di questo si sono accorti anche i pescatori e gli addetti al settore, ancora Alessandro Faccioli. Bisogna porre molta attenzione sulla vivificazione degli ambienti lagunari. Questi ambienti, purtroppo, essendo qui nel Delta, tendono ad interrarsi perché il Po, l'Adige, i principali fiumi portano sedimenti, occludono le bocche a mare e la stessa regimazione idraulica all'interno delle lagune non avviene più come in origine avveniva. I fenomeni si stanno accentuando perché quando arrivano queste bombe d'acqua arrivano giù quantità di sedimenti che ogni volta occludono non solo le bocche delle lagune col mare, ma anche le bocche che coincidono con i porti pescherecci. Da lì i pescherecci non riescono più a uscire in mare, se lo fanno è a rischio della propria incolumità, e la stessa cosa avviene nelle lagune. Qui occorre una grande sensibilità. Il FEAMP, che è il nuovo strumento finanziario per la pesca, in alcuni punti prevede una maggiore sensibilità verso questi ambienti nevralgici. Insomma, dai 3 mm delle vongole, come vedete, il tema si è ben allargato e non a caso. A livello nazionale la situazione della pesca varia da regione a regione. Ci sono aree che hanno scelto di investire nel settore e puntano sull'acquacoltura, ad esempio. Marche, Veneto e Molise hanno così un'incidenza della piccola pesca pari al 45% della flotta complessiva, mentre in altre regioni, soprattutto in quelle del Tirreno, la pesca artigianale rappresenta più del 65% dell'intera flotta. Ed è proprio qui che la crisi morde di più, con abbandono del mestiere da parte dei vecchi e mancato ingresso dei giovani negli ultimi 10 anni, con un numero dei pescatori che si è ridotto del 22%. In Liguria il tema è molto sentito e si lavora ad alternative. Per correre ai ripari, la Liguria, ma questo sta avvenendo in tutte le regioni, si sta attrezzando e rivolgendo verso l'acquacoltura, che nel settore sta diventando trainante, come ci racconta Riccardo Iannone, che in Regione Liguria gestisce il settore politiche agricole della pesca. Allora, l'allevamento dei pesci è iniziato anche questo nel Golfo della Spezia, perché anche l'allevamento dei pesci in linea di massima richiede uno specchio d'acqua riparato, in cui si ripara dalle mareggiate, insomma dalle forti correnti. In qualche caso ci sono stati conflitti, diciamo, con l'opinione pubblica locale per motivi diversi. Diciamo, l'opinione pubblica teme probabilmente l'inquinamento derivante dallo spargimento di mangimi. Insomma, noi non siamo, come dire, non, non siamo dell'idea che questi rischi esistano effettivamente, del resto dove l'acquacoltura già esiste questi rischi non ci sono, anzi tutto il più quel poco di mangime che si disperde lì fuori dalle gabbie richiama altri pesci, quindi anche i pescatori sportivi ne possono in qualche modo trarre dei vantaggi. Gli antibiotici sono generalmente distribuiti insieme ai mangimi, quindi sono in quantità tali da suscitare allarme. Sul fronte delle cose da fare c'è anche il tema della formazione dei giovani, una nuova generazione che sappia gestire l'insieme dei dati, ecologia, economia e normative europee, continuando però a pescare. Il sole dietro le spalle è un pescatore. Euroreportage. In collaborazione con Euronet Plus.